Prima nei campi la gente cantava canzoni d'amore e adesso tace. Ora da nebbie lontane disceso il tedesco invasore, il più feroce e tenace per ammazzare gente tranquilla che vuole solo la pace. Abbassate pure condottieri tutti i ponti levatoi, voi chiamate in casa gli stranieri per scannarvi fra di voi, e chi paga siamo noi ogni volta che la patria mia chiama in casa lo straniero. L'acqua limpida si cambia in sangue e il giardino in cimitero. Prima nei campi la gente cantava canzoni d'amore e adesso tace.